si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'altra cronaca su Radio 24, le nostre piccole grandi storie positive che raccontiamo con una certa leggerezza naturalmente, anche se non vogliamo sminuire i problemi che ci sono e che durante la settimana ci sentiamo raccontare più e più volte, però che raccontiamo anche con una certa precisione, perché vogliamo così cercare di far vedere, di dimostrare che un'altra Italia è possibile, un'Italia migliore. Piccole notizie per entrare nel clima della giornata. La prima notizia viene da Bologna, una notizia di risparmio, responsabilità e una risposta al problema abitativo. Case abbandonate, il comune presta 43 appartamenti per 99 anni al via il bando Io Auto Recupero. Di che si tratta? La ristrutturazione di 10 immobili di proprietà del comune che sarà affidata a cooperative costituite dai futuri proprietari che quindi presteranno la loro opera proprio per questi adeguamenti strutturali. Sono 43 alloggi che riceveranno, che verranno dati in stato di abbandono, verranno trasformati in alloggi abitabili ed andranno per 99 anni alle persone che ne faranno domanda. Prossima notizia viene dalla Sardegna, l'università a Sassari, immatricolazioni gratis per le donne over 45 anni. Ebbene sì, per cercare di rimettere in pista le donne che spesso a volte hanno difficoltà sul mercato del lavoro, insomma l'università di Sassari offre questa opportunità. Non si pagano le tasse se si è donne over 45 né non si è state iscritte all'università nei 5 anni precedenti, dunque non bisogna barare, però le neomatricole dovranno essere in pari con i crediti formativi almeno per il 50%. Dunque donne e sarsaresi e sarde, approfittatene a Sassari, l'università per voi è gratis se siete over 45 anni. La prossima notizia è una curiosità che riguarda sempre l'universo femminile, è la scelta di una giovane ragazza di 20 anni che farà discutere, ma noi vogliamo vedere del bene anche in questo. Vende la verginità per aiutare i poveri. Ecco l'idea di Catarina. Catarina Migliorini ha 20 anni e vuole aiutare i poveri del suo paese mettendo all'asta la sua prima volta. 155.000 dollari e regole ferree, leggiamo da questo articolo, per il vincitore. Lei è una ragazza di origine italiana, vive in Brasile, viene definita una giovane donna di una bellezza mediterranea. Lo scopo è quello di aiutare le famiglie povere del suo paese, Santa Caterina, e noi vogliamo credere a questa ragazza e alla sua come dire, buona fede, e poi insomma che la sua generosità sia così intensa da spingersi sino a questo punto. Vedremo poi se questa notizia avrà degli sviluppi. Noi aspettiamo le vostre buone notizie durante la settimana alla nostra pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24, e poi alla segreteria telefonica la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Immagino che ci sono cose più importanti, e poi quello che sto per dire per le grandi città. Siccome è importante vivere serenamente anche con le piccole cose, io proporrei, parlo da Roma ma vale anche per Milano, una task force che facesse la multa sia per il decoro e chi butta le gomme, le cartacce. A Roma puliscono anche, ma dopo mezz'ora è tutto sporco. Insomma, tutte forme molto piccole di buona educazione, per esempio quando fanno i concerti, e sicuramente potrebbero entrare anche delle entrate al comune. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Ness- nessuno si fida più di loro, ma non stiamo parlando del gatto e della volpe, stiamo parlando delle amministrazioni pubbliche, dei comuni. Nessuno vuole lavorare più, nessuno che abbia un'impresa con loro, perché si sa che i pagamenti arrivano in ritardo, molto molto molto in ritardo, a volte non arrivano nemmeno. Ma c'è chi vuole recuperare questo gap di fiducia da parte del mondo delle imprese e dei fornitori delle pubbliche amministrazioni con un'iniziativa che viene dalla provincia di Varese. Siamo a Comerio, il sindaco che è nostro ospite. Buongiorno Silvio Aimetti, benvenuto. Buongiorno. Ha annunciato qualche giorno fa un impegno a arrivare a pagare i fornitori entro 30 giorni. Siete impazziti o cosa? No, non siamo impazziti, è una sfida, ma credo che sia raggiungibile. Ecco, noi abbiamo un po' valutato bene con la mia squadra di governo del nostro piccolo comune, con gli uffici, e abbiamo deciso di non lanciare una sfida, di capire se è possibile affrontare i pagamenti alle imprese e ai fornitori con questa tempistica, che è sostanzialmente una tempistica, direi, aziendale. Ecco, Come mai la maggior parte dei comuni, ora è facile pensare che si paghi in ritardo per... come succede, no? per questioni di interessi, per posticipare, in qualche modo sempre per questioni di cassa, ma c'è anche un'inefficienza sicuramente dei comuni, delle amministrazioni pubbliche. Voi come pensate di recuperare questo deficit di lentezza? Quale idea avete? Noi siamo un comune piccolo, noi abbiamo un bilancio che è sano, abbiamo quindi fatto un bilancio preventivo con delle cifre impegnate chiaramente, quindi abbiamo dei soldi in cassa, abbiamo deciso quindi di, d'accordo con i nostri uffici competenti, quindi che sono da questo punto di vista efficienti, di riuscire a pagare sia le forniture che le opere realizzate chiaramente previa verifica della conformità ai capitolati delle opere a 30 giorni. Ne abbiamo parlato, abbiamo valutato bene tutti i dettagli, una cosa che può essere fatta. Chiaramente noi siamo comuni piccoli, ripeto, per comuni che rientrano in un patto di stabilità diventa una cosa un po' più complessa e un po' più articolata, anche se con una riduzione della spesa corrente anche questo può essere affrontato secondo noi. È chiaro che è una tematica molto più complicata ed articolata dal punto di vista dei bilanci, ecco. Però possiamo farlo. Poi sì. Voglio dire, mi permetta, prego, sì. Mi scusi. No, insomma, lodevole la vostra iniziativa, poi naturalmente si tratterà di vedere se riuscirete a farlo. Naturalmente noi ve lo auguriamo, e lo auguriamo soprattutto a tutti i vostri fornitori. Lei dice è un impegno che noi prendiamo, però c'è chi lo prende e c'è chi non lo prende. Voi, almeno da questo punto di vista, questa promessa la state facendo. Tra l'altro non siete nuovi ad iniziative positive sul fronte dei bilanci, positive dal punto di vista dei cittadini, perché credo che nell'ultimo anno e mezzo di cose ne abbiate fatte. Lei parlava del bilancio partecipato, ma ci sono anche, avete ridotto le spese, avete ridotto la tassazione. La spesa corrente del 4% quest'anno, cioè l'obiettivo, sì, è quello. L'anno scorso noi siamo stati eletti l'anno scorso del 2, e abbiamo sostanzialmente razionalizzato la spesa, ecco, perché per esempio per quanto riguarda il sostegno alle famiglie e alla scuola è aumentata di quasi il 20% quest'anno l'investimento, quindi siamo andati a tagliare, diciamo, le spese o razionare le spese improduttive. Abbiamo aumentato le entrate per esempio perché abbiamo installato degli impianti a fonti di energia rinnovabili, quindi abbiamo cercato di aumentare questo. Insomma, questo ci ha permesso in poco poi di fare una piccola manovra, quindi abbiamo fatto un IRPEF graduale per non andare a gravare sulle famiglie, l'IMU abbiamo tenuto l'aliquota base e abbiamo lanciato un piano di dismissioni di alcuni beni che non ci servivano per andare a finanziare un social housing. È una cosa molto articolata, e poi abbiamo fatto un piano di investimenti per quest'anno, direi abbastanza ambizioso, quindi per sistemare delle strade, delle scuole, quindi cioè, il piano degli investimenti non è che siamo keynesiani perché siamo un piccolo comune, però l'obiettivo era quello di far ripartire un po' l'economia, ma l'economia una la fa ripartire se poi paga subito, perché se uno fa fare un'opera anche significativa ma paga dopo 180 giorni, certo, la piccola azienda va in crisi. Quindi noi guardi, volevamo anche, cioè, l'obiettivo dei 30 giorni era il seguente: noi volevamo fare tre cose, detto in estrema sintesi. Dare un esempio di efficienza della pubblica amministrazione al cittadino, e questo era un segnale importante in questo momento. Il secondo obiettivo era quello di far girare l'economia, quindi far girare i soldi che noi abbiamo impegnati, pagarli a 30 giorni. E da ultimo, che secondo me non è da non considerare questo aspetto, io credo che se le pubbliche amministrazioni riescono a pagare a 30 giorni o a 60 giorni al massimo, sono certo che tante piccole aziende di ottima qualità possono tornare ad ambire ad essere fornitori della pubblica amministrazione. Io sono un piccolo imprenditore, però fa un po' paura la pubblica amministrazione per le piccole imprese. Se invece si sa che la pubblica amministrazione paga a 30 giorni, beh, io credo che possa addirittura avere degli ulteriori ribassi d'asta. Caro sindaco, noi verremo a trovarvi tra un po' per vedere se avete mantenuto questa promessa. Prego, mi faccia. Mi permette un'ultima battuta, sì. Poi è una cosa personale. Io ho la moglie tedesca, quindi i tedeschi pagano. Ah, lei non voleva fare brutta figura in casa, e questo lo capisco. A 70 giorni, e io ho detto, ti voglio far vedere che noi siamo meglio di voi. Quindi accidenti. Voi di cose ne avete fatte molte, quindi siamo sicuri che riuscirete su questa strada, quantomeno a ridurre questi tempi. Ripeto, verremo a trovarvi per vedere se ci riuscite. Piacere. Caro sindaco, intanto il messaggio che viene da Comerio è questo: volendo si può, basta mettere insieme una serie di pratiche e atteggiamenti virtuosi sul fronte del fisco e dei bilanci anche di piccoli comuni, ma cominciando dai piccoli comuni possiamo arrivare anche alle grandi realtà. Grazie. Grazie a voi. E ci risentiremo più avanti. Intanto, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insomma, avete sentito la storia che viene da Comerio in provincia di Varese, cari sindaci delle altre piccole e medie città. Prendete spunto da queste buone pratiche e datevi da fare. Adesso prendiamo un taxi. Boh, onde va? Onde va? Je t'emmène taxi Bamako. Tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide. Tu es ma seule cliente, je fais ma course au ciel. Où tu veux, je t'emmène. Tu t'assois, je conduis taxi Bamako. Taxi Bamako. Posso fare le taxi ici? Où tu veux, je t'emmène. Tu t'assois, je conduis. Prendiamo un taxi un po' particolare, siamo a Molfetta in provincia di Bari, la notizia è questa: un'auto attrezzata accompagnerà gratuitamente anziani e disabili presso i presidi medici e gli uffici di cui queste persone necessiteranno. È stato presentato qualche giorno fa, si chiama il taxi sociale e noi abbiamo il piacere di parlare con sicuramente uno dei suoi ideatori e promotori, l'assessore Luigi Roselli, che è assessore ai servizi socio-educativi del Comune di Molfetta. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, dottor Fabrizio, e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio 24. Grazie, eccoci qua. Allora, come vi è venuta in mente questa cosa qua e come funziona soprattutto, caro assessore? Sì, in realtà questo progetto nasce da un'esigenza e da una precisa domanda. È un servizio nuovo per il nostro comune, sperimentale, ed è gratuito ed è rivolto agli anziani e ai soggetti diversamente abili che risiedono nella nostra città. In realtà si tratta di un'automobile attrezzata che accompagna appunto gli utenti negli spostamenti in città e in quelle città confinanti. In realtà, dicevo, si tratta di soggetti che il più delle volte esprimono una problematica molto chiara, quella della mobilità, hanno difficoltà ad utilizzare i tradizionali mezzi di trasporto, per cui in questo caso il taxi sociale li accompagna, come ha detto lei, sì, presso presidi sanitari, per esami di laboratorio oppure per visite mediche, ma anche presso enti, uffici, per esempio uffici postali, per il disbrigo di pratiche burocratiche e di utilità. Magari sociale. Sono anche persone che non solo hanno la difficoltà di spostarsi, ma probabilmente hanno anche poche risorse attorno, pochi parenti comunque persone disponibili a trasportarli, perché magari i figli o i nipoti sono al lavoro, sono impegnati, e quindi si crea questo bisogno che tutti, credo, in famiglia abbiamo sperimentato e conosciamo. Dunque questa iniziativa nasce da questo bisogno. Come funzionerà? Come faranno le persone ad accedere a questo servizio? E quando iniziate, tra l'altro? Allora, iniziamo a giorni. In realtà per accedere al servizio è necessario fare una domandina, rivolgersi ai servizi sociali e nell'istanza vanno ovviamente indicate, oltre alle generalità, anche alcune certificazioni, più che altro autocertificazioni per stabilire la condizione fisica di autosufficienza o di parziale autosufficienza. Ovviamente, dottor Fabrizi, lei sa bene che questo non è un servizio di trasporto per un soccorso, non vuole essere un'autoambulanza o un'automedica, non vi supplisce in alcun modo, per cui è necessario avere anche una parziale autosufficienza per poter utilizzare questo. Voi lo avete chiamato il taxi sociale e avrà anche le sembianze in qualche modo fisiche di un taxi, cioè si tratterà di un'auto bianca? Sì, questa è un'auto bianca, ma a proposito, continuo a dirle un attimino come procedere. Una volta accertati i requisiti, poi l'ufficio valuterà appunto i soggetti che possono beneficiare e dopodiché ci sarà un numero verde dove potersi prenotare contattando appunto questo numero verde, e noi ci avvarremo della collaborazione ovviamente di operatori di un'associazione di volontariato che è il SER Molfetta, che ha una consolidata esperienza in campo sociale. Le vogliamo dirlo il numero verde, così ci portiamo avanti? Sì, magari. Il numero verde è 800 174 272. Benissimo. E la cosa che volevo dirle è un aspetto che mi preme sottolineare, perché ha parlato anche del mezzo. Questo progetto nasce soprattutto grazie a una vera e propria rete di solidarietà. Guardi, oltre all'impegno dell'amministrazione vi è l'impegno concreto di aziende che sono presenti sul nostro territorio. Queste aziende hanno sponsorizzato il mezzo. Attraverso la pubblicità sul loro mezzo hanno consentito al comune di ricevere in comodato d'uso gratuito questo mezzo da un'azienda di mobilità gratuita. Questo credo a testimonianza appunto che l'impegno da più parti possa rendere iniziative interessanti e di grande utilità sociale. Senta, assessore, io le devo fare però le devo chiedere di fare una promessa, perché spesso iniziative come questa, belle iniziative, sconti, non so, a me viene in mente un esempio: a Milano a un certo punto gli ultra 65 anni non pagavano i mezzi pubblici, però non lo sapevano e quindi non c'erano domande, e questa iniziativa è rimasta per molto tempo, ahimè, diciamo, non sfruttata a dovere. Fate pubblicità, fate molta pubblicità a questa cosa, sennò poi il taxi non lo prende nessuno. Guardi, allora, oltre ad aver fatto una conferenza stampa, abbiamo fatto una serie di comunicati stampa, ma soprattutto le dico che è stata presentata una brochure, una carta servizi che si chiama proprio così: hai bisogno di un passaggio, chiama il taxi sociale, che verrà distribuita in tutti i luoghi, diciamo, per esempio studi medici, oppure farmacie, oppure presso le associazioni di volontariato, presso i ipermercati che sono presenti nel nostro territorio, proprio per dare la massima diffusione. Lei ha ragione, questo è un aspetto assolutamente fondamentale, deve essere conosciuta la possibilità di questo servizio per consentire alle categorie a cui facevo riferimento di poterne usufruire, insomma. Va bene, non so se vogliamo aggiungere altro a beneficio degli abitanti di Molfetta in provincia di Bari. Parliamo di una cittadina, 60.000 abitanti, però non è un'iniziativa da trascurare. Il taxi sociale, che tra qualche giorno insomma sarà a disposizione per chi avrà fatto domanda, come lei ci ha spiegato. Il numero verde l'abbiamo detto. Assessore, che facciamo? Ci sentiamo più avanti per fare un bilancio? Sì, assolutamente sì, questa mi sembra una bellissima idea, credo che ci possiamo sentire più in là per vedere il numero di domande che sono pervenute e soprattutto come sta funzionando, perché essendo un servizio sperimentale è nostra intenzione seguirlo e monitorarlo molto attentamente. E mi raccomando, fate tanta tanta tanta pubblicità, un po' l'abbiamo fatta anche oggi qua alla radio, così il servizio sarà conosciuto e ci saranno tante domande di adesione. Grazie. Io la ringrazio lei per averci dato anche questa ulteriore possibilità di diffusione della notizia. Grazie, questa era l'iniziativa da Molfetta. Benissimo, adesso invece, prima della pausa per gli aggiornamenti del giornale radio, vi vogliamo proporre anche oggi la notizia si può fare dal mondo, la più bella della settimana. And the winner is... Il premio di questa settimana va a Heidemarie Schwermer, una donna tedesca che da 18 anni vive, per scelta, senza utilizzare denaro. Nel 1994, all'età di 51 anni, ha preso una decisione drastica e senza ritorno, lasciando su due piedi la sua casa e il suo lavoro di psicoterapeuta. Ha cancellato l'assicurazione privata sulla salute e regalato la propria macchina. Si è detta: chi ha molti amici se la cava sempre, in un modo o nell'altro. La cosa incredibile è che aveva ragione. Da allora si procura tutto ciò che le serve attraverso il baratto. Vive nelle case delle persone in vacanza e in cambio si prende cura dei loro alloggi. aiuta nei negozi e in cambio riceve prodotti alimentari, fa le pulizie in un internet caffè e in cambio utilizza un computer. Oggi Heide Marie Schwermer ha 70 anni. Per molti è suonata, ma lei dice di sentirsi più libera e più ricca di prima, perché non essendo più costretta a lavorare per guadagnarsi da vivere, ha arricchito enormemente la qualità e il numero di relazioni della sua vita. Forse la rivoluzione può nascere anche nel cuore di una nonna. La sua storia è senza sfumature di grigio, ma dimostra una cosa: condurre un'esistenza liberi dalla schiavitù del denaro si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati cari ascoltatori con Si può fare, l'altra cronaca su Radio 24. Oggi siamo partiti dalla storia di Comerio, in provincia di Varese, dove il sindaco, anche ai nostri microfoni, si è impegnato a pagare i fornitori entro 30 giorni. La legge europea impone 60 giorni, in Italia siamo molto al di sotto o al di sopra, come preferite, di questa soglia. Insomma, i comuni non pagano mai, pagano lentissimamente, e oggi abbiamo sentito l'impegno di un comune serio che sul fronte del fisco ha avuto già altre iniziative, credo apprezzate dai cittadini. Poi siamo passati da Molfetta, in provincia di Bari, dove abbiamo raccontato la storia del taxi sociale che debutterà tra qualche giorno, porterà le persone anziane e disabili che hanno bisogno, non sostituisce un'autoambulanza, ma insomma li porterà nei presidi medici, all'ospedale, dal medico e negli uffici quando ne avranno bisogno. Un servizio gratuito, basterà prenotarsi al numero verde. Due belle storie tra le tante che ogni giorno, anzi scusate, ogni sabato e ogni domenica raccontiamo da mezzogiorno all'una a Si può fare. Cronache da un paese migliore. Adesso è il momento delle nostre previsioni economiche, speriamo possibilmente ottimiste. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi provocati da una zona di alta pressione fiscale verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno speriamo. Holiday, holiday, perché l'avviso ai naviganti di oggi ha a che fare con le vacanze, perché si sa che insomma uno dei capitoli su cui spesso dolorosamente tutti noi, le famiglie, devono andare a tagliare in questi tempi di crisi sono proprio le vacanze, perché non ci sono, ahimè, i soldi a sufficienza. Ecco che arriva una iniziativa che promette di essere una risposta importante a tutto questo. Vacanze ad un euro, naturalmente non è proprio così, però quasi. Come è possibile? Lo chiediamo al fondatore di Family Link Travel, Riccardo Urbani. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Vacanze a un euro, in realtà un euro è il costo dell'iscrizione al sito di cui lei è promotore e fondatore, che ci consente di fare che cosa? Allora, ci consente di iscriverci a una community di famiglie di tutto il mondo, e famiglie nell'accezione più moderna del termine, quindi coppie, separati con figli, coppie numerosi, sposati, non sposati, eccetera, eccetera. Una community che diciamo in cui lo strumento è quello dell'ospitalità, cioè il darsi ospitalità nei viaggi o in parte dei viaggi. È un'idea che insomma, quello di ospitarsi gratuitamente, lo scambio, il classico scambio, insomma, o meglio, una rivisitazione anche con forse meno regole rispetto a quello che è lo scambio, quindi ci sono più opportunità. Io lo scambio, per esempio, l'ho fatto anni fa, sono andato a casa di una famiglia e poi la famiglia è venuta da me, quindi non si spende. Il valore aggiunto oggi è che tramite questa piattaforma si sfruttano le potenzialità del web, credo di capire, per dare a un'idea che tutto sommato è in campo già da tempo, però per dargli una veste e una potenzialità nuova, è così? Sì, c'è una, ci sono due parole chiave che non si riscontrano nelle altre esperienze. La prima è proprio quella della famiglia. La seconda è che non esistono community in cui si va in una famiglia, ma non è che l'altra famiglia non ci sia, cioè si viene ospitati e si sta lì per il tempo che si decide insieme, ok? Quindi è diverso, perché l'obiettivo è quello di vedere i paesi anche con gli occhi di chi nei paesi ci vive. Certo, e questo è un altro punto. Io ho letto anche alcuni, insomma, comunicati di questa iniziativa, alcune sue interviste che ha già rilasciato. Lei dice la cosa bella è proprio questa, perché insomma racconta anche delle sue esperienze. Se vuole magari ce ne racconta qualcuna anche a noi, di viaggi fatti andando sul posto, grazie all'ospitalità di queste famiglie si viene a conoscenza di aspetti che altrimenti, insomma, è ovvio, si faticherebbe a conoscere, a venire a conoscenza. Sì, c'è un, diciamo, un valore aggiunto che è importante. Il primo è che, appunto, come posso dire, se guardiamo dal punto di vista economico, c'è un guadagno, cioè, scusate, dal punto di vista del benessere c'è un guadagno, perché è diverso, insomma, fare un viaggio mordi e fuggi invece che vivere proprio nel posto con persone che lì vivono. E quello che si scopre è completamente diverso da un viaggio di tipo tradizionale. Le faccio un esempio: io sentirò dal mio accento che sono veneto, vivevo a Vicenza, vedevo tanti pullman con i turisti che vanno a vedere le ville del Palladio, eccetera. Certo. Ma è difficile trovare turisti che, anzi quasi impossibile, turisti che scoprono quello che Vicenza è oggi. Quindi i locali veramente frequentati dai vicentini, sì, gli spettacoli dei vicentini. E la stessa cosa in tutto il mondo. L'anno scorso noi abbiamo visitato l'isola di Gozo, l'arcipelago maltese, e siamo stati ospiti da una famiglia di Gozo, di Malta, e abbiamo scoperto un'isola straordinaria, concerti meravigliosi che solo i locali conoscevano, per esempio. Insomma, lei è un viaggiatore, si sente anche dalle esperienze che ci racconta, e in qualche modo è giunta a questa conclusione, che viaggiare in questo modo è più gustoso, è più divertente. Una domanda però gliela voglio fare: chi garantisce in qualche modo, come funziona da questo punto di vista il vostro sistema, che io parto e vado e arrivo esattamente dove mi aspetto di arrivare, insomma, che non ci siano sorprese? Diciamo, intanto prima del viaggio c'è un incontro via web, quindi le famiglie che si possono parlare attraverso la community, alle community via internet, e possono conoscersi. I requisiti, ci sono dei requisiti di sicurezza, noi siamo sicuri che le famiglie sono quello che dichiarano. Quell'euro di cui lei parlava per l'iscrizione ci serve anche per verificare attraverso il pagamento che la persona sia effettivamente quello che dichiara. Poi all'interno del sito c'è anche un modo per poter valutare le esperienze, quindi possiamo anche verificare durante la nostra esperienza se qualcosa non va proprio come dovrebbe andare. Quindi c'è una sicurezza iniziale, poi c'è un processo di sicurezza anche durante la navigazione, durante questa esperienza. Va bene, grazie allora, e buoni viaggi a lei e a tutti. Naturalmente questo era Family Link Travel, per chi fosse interessato si paga un euro, si va sul sito, ci si registra, si entra in contatto con delle famiglie, poi naturalmente il biglietto, quello aereo, bisogna pagarlo, il resto però è ospitalità, incontro, scambio. Grazie per essere stato con noi, a Riccardo Urbani, e magari ci risentiremo più avanti quando avrete qualche dato su quanta gente sta aderendo a questa vostra simpatica iniziativa. Perfetto, io ringrazio lei e gli ascoltatori, lascio solo l'indirizzo del sito, che è www.familylinktravel.org. Grazie allora, e per chi fosse interessato abbiamo dato anche i contatti. Adesso traffico, torniamo tra pochissimo con la nostra rubrica Come è andata a finire. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare. Rinunciare, si può fare, puoi prendere o lasciare. può crescere, cambiare, continuare a navigare. Come è andata a finire il nostro appuntamento della domenica? Andiamo a rintracciare notizie che magari si perdono, annunci che vengono fatti, la politica soprattutto è piena di annunci, ma noi siamo lì, andiamo a ricercare le cose e vediamo, verifichiamo come sono andate a finire. Questa volta siamo a Catania, qualche mese fa l'annuncio del sindaco e della giunta, meno tasse a chi denuncia il pizzo, un sistema per incentivare naturalmente la denuncia del pizzo e di andare nella direzione della legalità, un incentivo forte, pagare meno tasse per i cittadini. Allora, è passato qualche mese, abbiamo convocato il sindaco Raffaele Stancanelli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. E la domanda è, su Spans, come è andata a finire? Avete raccolto adesioni a questa iniziativa? Allora, noi abbiamo fatto, forse siamo una delle prime città che ha fatto un regolamento, ha approvato una delibera che prevede il rimborso intero di tutte le tasse imposte comunali a chi è stato vittima di estorsione e ha un titolo giudiziario che lo certifichi. Abbiamo fatto il regolamento, abbiamo già incominciato a raccogliere le domande, abbiamo messo in bilancio una prima somma di 50.000 euro e alla bisogna siamo in condizione di mettere altre 50.000 per dare un riscontro a coloro i quali avessero i requisiti previsti dal regolamento. Quindi i soldi ci sono, ce l'avete messi? Li abbiamo messi in bilancio, quindi la competenza c'è, non appena si sarà esaurita la fase della raccolta delle richieste, noi a sportello provvederemo a pagare, a rimborsare coloro i quali hanno pagato tutte le imposte dovute. Sì, perché io so che avreste voluto esonerare dalle tasse, ma questo tecnicamente non era possibile, non si può fare. E quindi avete scelto giustamente la strada del rimborso. So che c'è anche una questione di privacy, perché naturalmente si parla di processi, di denunce alla criminalità, a chi chiede il pizzo, quindi di un impegno in prima persona di questi commercianti, una questione importante di privacy, e lei non si può sbilanciare. Però ci dica se, a quel che ho capito, ci sono state comunque delle pratiche avviate. Immagini che c'erano state già le richieste prima che fosse emanato il regolamento, per cui noi abbiamo rimesso in termini coloro i quali le avevano già presentate, e l'apposito ufficio che è molto attivo, devo dire, in questa vicenda sta esaminando tutte le richieste e devo dire abbiamo la collaborazione, questo è il dato positivo, di tutte le associazioni anti-racket di Catania, sì, per la sinergia che siamo riusciti a creare. Cioè, è un esempio forte, concreto, per dimostrare non soltanto a parole la vicinanza a coloro i quali sono vittime del racket. Insomma, voi volevate dare un segnale, questo segnale ecco, è arrivato. Poi naturalmente, insomma, quante persone riusciranno ad aderire, quanto questo movimento riuscirà a crescere, è una cosa che non si fa in un giorno. Ma questo perché, dipende, insomma, questi sono esempi virtuosi, cioè più riusciamo a immettere nel tessuto catanese, a mandare il messaggio della solidarietà concreta, certo, ripeto, e più io penso che si propagherà l'onda positiva. Ecco. Senta, sindaco Raffaele Stancanelli, sindaco di Catania, già che l'abbiamo in linea, siccome questa settimana il governo ha approvato il decreto, una parte dell'ultimo decreto, quello sui cieli bui, che ha colpito un po' anche l'immaginario, no? Il fatto del risparmio durante le ore notturne con tutta questa illuminazione pubblica che costa un sacco, voi anche su questo fronte devo dire che siete all'avanguardia, perché voi vi siete mossi per tempo, e che cosa fate esattamente? Ma guardi, noi abbiamo dal 1° maggio a Catania, penso che sia la prima città e forse attualmente l'unico capoluogo di provincia in Italia, noi attraverso una gara con la Consip, quindi aderendo alle regole che la spending review ha dato, ma che noi avevamo anticipato, abbiamo affidato il servizio di illuminazione pubblica a una società appunto scelta dalla Consip, che prevede la trasformazione, già siamo in fase addirittura d'arrivo perché abbiamo iniziato il 1° maggio di quest'anno, la trasformazione tutta a lampade LED, cioè quelle che ci sono per intenderci nelle grandi città tedesche, che ci portano un risparmio di oltre il 40% anche in termini economici, e quindi saremo esentati da questo da questo decreto che prevede appunto la necessità dello spegnimento durante le ore notturne, perché già siamo in regola con i requisiti e i parametri che il decreto stesso fissa. Quindi un fatto assolutamente positivo che avevamo, non dico previsto, perché l'abbiamo fatto in quel clima di risparmi, di revisione della spesa che a Catania noi portiamo avanti da 4 anni e dopo che abbiamo trovato una situazione di assoluto disastro, non soltanto delle finanze ma dei bilanci e di tutto, e quindi volenti o nolenti, certo, abbiamo attuato una politica assolutamente rigorosa di risparmio che oggi ci porta a essere un po' fuori dal baratro in cui eravamo trovati. Meglio per voi. E certo, poi per fare delle cose di buon senso, delle cose di risparmio per i cittadini non servono, non è necessario che arrivino i decreti. Catania dimostra che ci si può muovere per tempo grazie al sindaco. Grazie a lei. La notizia da cui siamo partiti era meno tasse per chi denuncia il pizzo, poi già che c'eravamo ci siamo aggiornati sul LED, l'illuminazione pubblica a LED a Catania, che fa risparmiare un bel po' di soldini alle tasche del comune. È tutto anche per la puntata di oggi. Io ringrazio Franco Piantanida per l'assistenza in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, in regia Matteo Comes e Paolo Corleoni. Ci sentiamo sabato prossimo, l'appuntamento con Si può fare. Adesso vi lasciamo alla segreteria telefonica. Sono d'accordo col signor che ha telefonato. Fa tassare la prostituzione e in più, visto che siamo in crisi, abbassare le buste paghe di tutti i senatori, parlamentari, consiglieri e tutto. Volevo segnalarvi che in merito ai lavori che si potrebbero affidare ai precari, c'è il famoso voucher della IMSS, col quale con 10 euro uno lo compra, lo do alla persona che è anche assicurato, cosa che a Berlino facevano già 50 anni fa. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.